temuto nemico di tua gloria, prende cessi, il libero ti lascia, il campo a quel disegno che tante volte tante formò dentro il tuo cor desio di regno. C'ha mille e mille armati sospirano il momento di tua grandezza, il fato quante presso l'assadio e se Ariadna vuol regno sul suo cuore pensa regnare sul tuo, folle si inganna. Su, su, dunque il cimento prendi il grido